100 forse le leggi. Invece ti volevo dire, nel caso guardassi internet, stai molto attento alla MIT, alla President ML145, sembra uguale a quella Midland, ma dentro un filo talmente sottile, tu guarda la truffa, è data per 600 watt di picco, e un tale ha messo uno straniero ha messo un video su YouTube che non trovo adesso, ha fatto alcuni passaggi in AM con 100 watt in AM, no? Alcuni passaggi, si è sciolto il nucleo di plastica che, su cui era avvolta la bobina, quindi quella è proprio una truffa. Cioè 600 di picco o almeno 200 continui te li devi tenere, ricordati, non comprare President ML145, quello è proprio fatta molto molto molto male. Ma io veramente l'ho indirizzato sulla mini turbo oppure sulla, come si chiama, PLC Minox, non ho capito, ma per caso era come quella che aveva Antonio Drotte, che addirittura gliel'avevano rubata da un cortile interno dove aveva messo la macchina, mi pare ricordare una cosa del genere. Ehi, esatto, gliel'ho fatta comprare io, Antonio. Ehi, ascolta già, ma soprattutto tu, cioè hai già deciso cosa farai, base magnetica, bucare non credo, oppure staffe tipo quelle portellone, portiera, cofano? No, non voglio graffiare nulla, Marco, mi metto la base magnetica, ce l'ho già comprata, c'è il buco tutto quanto, la metto nel buco e di quelle grezze proprio si vede la calamita, non c'è manco la parte di sotto, praticamente c'è direttamente la gomma, dai, per tenere, per non graffiare, però non c'è la lamiera come ce l'hanno certe per chiudere, capito? Sì, praticamente al foro dove tu metti l'attacco che metteresti a centrotetto, l'attacchi lì, no? Avviti ed è fatta la cosa, dai. Sì, antenne ce ne sono tante, naturalmente, porca miseria, sai cos'è? Io ho picchiato il baracchino dentro Sassari, poco lo usavo, a me piaceva anche più uscire, andare per Torre, Salghero, vabbè Alghero poi perde il segnale, cioè con 4 watt non vado molto lontano, mi già, hai visto? A meno che non metta la scarpetta, ma in questo periodo è una cosa un po' delicata, non mi fido. Sai, controlli un po', c'è un po' più di severità in tutte le cose adesso, quindi. E poi non sono un fan del lineare, comunque, non mi rompe le palle, mi stare a temere, a guidare nel terrore, capito? E va bene, però dico, l'ho presa non troppo corta, ce l'ho anche corta, ma quella è proprio corta e in città le puoi usare, fuori città comincia a perdere pure troppo, mamma mia. Quelle corte ne avevo due, una era Lemma, una era Midland che era, mamma mia, 66 centimetri, ci funzionava in città, però basta che sì, in mezzo a quattro palazzi e uff. Lo so, ma l'unica, la Turbo 2001, con quella lì arrivavo a Santiago Nova, Radio 5 a Sassari da Alghero. Sì, se la stazione è buona, magari io, vabbè, sicuramente sto cavo mi dà perdita, però se una stazione è buona, tipo Claudio Carbonazzi, a voglia servi bene. Sì, naturalmente poi, vabbè, vedi tu, il consiglio era di non andare sotto il metro, poi dipende se a te interessa più per la città, per fuori città. Cioè magari tu non vai più a Protole per trabacco, capito? Prima era un andirivieni e ti piaceva usare il baracchino per andare a lavoro, per tornare. Adesso lo gira più dintorni, dai. Sì, quando vado fuori, capito? Vado al Alghero, Porto Torres, eccetera. Già andrò a farmi qualche giro lo stesso. Platanona. Come fai tu? No, quando giri te lo metti. La rottura è che io ogni volta devo smontare tutto, cioè piacere. bel baracchino, no? Con questi galletti che ho io, no? Avevo forato sotto la... quel, ti ricordi quel vano portagente aperto, no? Attaccavo lì, però, cioè, se lo lascio qua ti rubano anche gli specchietti in questa zona, tutto ti rubano, tutto rubabile, figurati se lasci un baracchino, anche se semi nascosto, magari, sai, illuminano con la pila, riescono a vedere i cavetti, magari il cavo del microfono, bene o male. Invece era molto bello il tuo che era scomparsa, ti ricordi quello con la bandiera americana, no? Quello bello che avevi, che hai ancora, credo. Lì era perfetto, chiudevi il cassettino e non si vedeva nulla. E allora? Sì, per lui era di lusso. No, va bene, ma ho dovuto bucare il portauscita, che io non le voglio fare di queste cose, cazzo, non voglio toccare la macchina nuova. Bucare il portauscita, se no io non devo bucare nulla, io li metto il biadesivo sotto la staffa e lo attacco, capito, come ho fatto con l'altro. Non ho bucato nulla, ho bucato solo per entrare il filo. Eia. A me era piaciuta questa cosa dei galletti, come quelle viti a galletto, no? Praticamente ci posso attaccare ogni tipo di apparato, piccolo, medio, grande. Ti dirò, c'era un periodo che avevo lasciato un omologato della Intec fisso e lo coprivo con un rotolo di carta, no? Poggiato lì che scendeva un po' giù, non si vedeva nulla, perché tanto l'antenna poi era tolta, no? Tolta messa al coppa. Però se rompono il vetro, se l'aprono, te lo fregano lo stesso, magari frugano tutto, vedono anche il baracchino. Parlo di quell'Intec, no? Certo non l'avrei pianto, però si secca comunque. A me mi hanno rubato un Intec FM500S e una base magnetica con la antenna. Cioè tutto in blocco, ma dove? A Sassero Pro Torres? No, allora l'Intec me l'hanno rubato a Sacro Cuore e mi hanno tentato perché mi hanno sentito alla radio che stavo dicendo vabbè faccio il QRT. Io una volta che uscivo dalla macchina lo coprivo con uno straccio e me ne andavo a casa. E hanno spaccato il vetro e gli hanno tagliato il filo, anche quelle elettriche, ho tagliato quelle forbici. Invece di staccarlo, cazzo, c'era lo spinotto, potevano staccarlo, c'erano le baranine, staccavano, facevano un lavoro pulito, invece era gente randagia, brutta. E qua è una zona buona lì. Vabbè, tu dici ogni zona. Tanti anni fa avevano rubato due autoradio nel tempo, no? Negli anni. Ma poi erano autoradio che non valevano 30 euro. Cioè dovevano essere tipo tossici disperati. E mi ricordo un particolare. Una delle due autoradio rubate, no? Anziché lasciare i fili pericolosamente, sai, tagliati o stracciati e lasciati a vista che sono a rischio cortocircuito, questo mi aveva isolato almeno i fili di alimentazione, aveva messo il nastro sui fili stracciati, no? Ho detto, caspita, un altro gentiluomo per evitare cortocircuiti, capito? Mi hanno rubato uno stereo, mi hanno spaccato, anzi, non è che mi hanno spaccato il vetro, mi hanno tagliato la guarnizione e non ho rubato lo stereo. Uno stereo che valeva un bel sud, un bel bello, si è tutto illuminato, cazzo, era di quelli di lusso allora. E contatto di tastiera, sempre dell'Alpine, no? Tutta la tastiera illuminata, verde, c'aveva, un bel bellino. Poi cambiavi i colori, viola, azzurro, lo potevi fare come vuoi, in base a come c'avevi all'interno della macchina, dal microscopio. E me l'hanno rubato. Ho sentito l'allarme suonare, mi sembrava un sogno, io c'avevo l'allarme allora. Poi mi sono alzato e ho guardato, c'avevo un pupazzo attaccato al vetro, non vedevo il pupazzo. Oh cazzo, un pupazzo manca dal vetro. Scendo giù, cazzo, il vetro era appoggiato sul sedile di dietro, non me l'hanno spaccato e hanno tagliato solo la guarnizione. E hanno rubato lo stereo. E anche poi io non ho messo mai roba, come dire, roba di un certo livello, erano tutta roba Majestic di 50.000 lire, no? Sai cos'è, non avendo il garage già, o meglio c'è ma senza la moto solo, ho detto cosa lascio, la motoradio costosa e poi appena me la rubano, perché prima o poi la rubano, Poi sai cos'è con la 1? Cioè, bastava qualsiasi spadino, aprivi la serratura, era uno schifo, la vecchia 1, ti dico, la vecchia 1, il primo modello addirittura, la aprivi con qualsiasi cosa, era una cosa incredibile, tanto voleva non chiuderla nemmeno. Allora, fino a poco fa c'era Roberto qua, poi sono andato alla TV, se non che mi ero dimenticato di prepararmi la roba da vedere stanotte, adesso devo, mamma mia, devo cercare la roba, i CD, DVD, come li vuoi chiamare, da, che volevo vedere oggi, c'è ancora, li devo cercare, quindi, vabbè, peggio per me, me la devo preparare prima, ho regalonato e niente. Prima ne saccavano un bel baracchino, prima ne saccavano un bel, prima se entravano con lui lo riconoscevo subito, c'era il microfono amplificato della Inter e quello con la batteria da 1,5, usciva un bel forte. Eia, non li hanno più fatti quei microfoni famosi, me lo ricordo, con la rotellina sopra, mi pare era successo a Leoncino, tipo Alghero, gli avevano rubato l'antenna dalla macchina e forse poi aveva trovato chi era stato, no, non mi ricordo, sono passati troppi anni, comunque secondo me le rubano a sfregio anche, non credo che sia per venderle o per usarsele, sai i ragazzetti, la marmaglietta, se lo fa per divertimento, capito, vede che si può svittare il galletto magari, poi c'è la lampada in un cassonetto. E la mia un po' male diveniva svitata, la stringevo col tubo. Ah, cioè, sì, giustamente tu hai tolto il galletto, comunque, o la maniglietta, gli ha messo il bullone a stringere, sì, perché a mani nude viene molto molto male, se non è impossibile. No, gli ho lasciato il galletto, però l'ho stretto con un tubo, ho fatto leva, si la stringe a stringerla a morte. Eia. Che serata, non ho compreso niente, vabbè. C'era Mortorio poi a metà serata e io sono andato a Florinas per una questione di affittuare i terreni e non ho trovato l'interessato. Beh, proprio quando ero a Florinas, in un punto alto che volevo sentire da Sassari chi c'era, era deserto il 10, deserto e deserto. Ho detto porca miseria, l'unica volta che scendo o salgo, dipende dai punti di vista, lì niente, non c'era nessuno. Poi come stavo rientrando è rientrata la gente sul 10. Perché c'era rumore, non si poteva modulare, non si sentivano anche i più forti. Sì, una cosa allucinante. Guarda, quando ero nel punto più alto, tipo Carlo Felice Alto, tipo Scala di Cioccali, allora Giulio veniva annullato, tu disturbato da non sentirti passava solo Roberto ed erano tutti segnali in FM, in banda laterale, guarda, un bordello, e anche fino a poco fa me non riuscivo a copiare Fabio Master che è da Sassari, no? Poi ha aumentato, non so, ha cambiato antenna o apparato e lo sentivo, però ogni tanto qualche disturbo, qualche bordata arrivava, è un bel casino. E poi lo sai che poi quando è troppa la propagazione comunque non riesci a parlare nemmeno con uno isolato, troppi segnali, ci si accavalano tutti i segnali. Bene, già, mi sta mancando la voce come sempre. Io adesso dai, mi cerco questi due DVD così la serata è fatta. Mi sto dedicando un po' alla televisione perché volevo stare sdraiato, mi sdraiato proprio con la schiena. Così sono un po'. Fase molto calante. Ieri non te ne dico, ieri sono stato quasi, non dico tutta la sera coricato, ma quasi. Ho detto tutto. Dai, ci sentiamo già. Prendo qualcuno dopo entrerà, penso. Dai, sì, ciao già, buona serata, buon tutto. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Buonanotte. Avanti se c'è qualcuno su 10. Vabbè, chiudo allora. Poca gente, ho sentito molto vuoto oggi, forse magari chi può esce già o chi sta lavorando, già lo sai, non sono tutti beghellonando come me, no? Cavagava, dai, ma c'è terreni a Florinas, quindi. Due sputi, dai. No, ti spiego in breve, adesso poi chiudo. Abbiamo affittato questa cava a un pastore, non noi, ma mio zio, no? Che poi è comproprietario. Praticamente lì, sai, è un pezzo pianeggiante, lui ha già fatto l'ovile e tutto, no? Però siccome mio zio è sempre evasivo nello spiegare le cose, insomma non siamo riusciti a capire chi è, allora voglio arrivare al coso, no? al succo. Per evitare l'usucapione, cioè questo c'è già da tanti anni, una volta che arrivi a 8 anni diventa suo il terreno, cioè bisogna mandargli una lettera, ecco perché no, volevo contattarlo. Prima che questo dica, beh, signori, sono passati 8 anni e adesso il terreno è mio. Da mio zio non sai mai nulla, perché lui, zitto zitto, si inguatta l'introito, non dice niente. Le sorelle non esistono, fa tutto il cazzo che vuole lui, scusa il termine. Però bisogna chiarirla, se no, se questo non lo trovo mai, bisogna avvertire i carabinieri di rintracciarlo. E poi si avvisa, insomma. O si smette questo, se dobbiamo fare in modo che non se lo tenga un terreno, per quanto sia una latrina. Ma che legge, sei in affitto perché lo deve tenere lui? Però ho sentito questa cosa, adesso è tutta roba che sa mia zia, che lei è fissata con i calcoli, queste cose, mappe, cose, no? Ho sentito che c'è quel rischio. Poi sai cos'è, non è chiara la cosa già, mio zio poco dice, non si riesce mai a capire se questo era un fitto, se è un favore, non vorrei che poi, capito, poi rimaniamo fregati noi. Se ne appropriassi lui. E così, vabbè, l'altro terreno, non, anche per l'altro bisogna stare attenti, perché se ci va uno a far pascolare le pecore solo lo dissoda a titolo gratuito, è importante che lo tenga bene il terreno, però anche lì c'è sempre il rischio che dopo 8 anni, signori, il coso è mio, però ho detto mi pare strano che sia così semplice, eppure... Poi a me delle cose di casa poco me ne frega di queste miserie che ci sono rimaste a Florinas. Tutta la roba buona è stata venduta, anche una casa c'era a Florinas, tutto venduto, tutto sparito, tutto mangiato, poi i soldi magnati. Ma non conviene a prendervi questi terreni pure di vissuti, scusa, così non vi pensi di... Però non sono intestatario io. Cioè, ti spiego già, l'altro giorno se ne sei mia zia, stavo quasi pensando che ormai è venuto, potremmo iniziare a vendere, ma quelli bisognava venderli 20 anni fa, 30 anni fa, cioè andavano messi, siccome l'acquirente erano troppi così, li dovevi mettere in vendita già 20 anni fa e più, così in 20 anni uno straccio di acquirente lo trovavi, ma se iniziamo adesso a metterli in vendita, lo trovi quando loro saranno già morte, sepolte, me ne dovrò occupare io o chissà chi. Quelli andavano venduti quanto prima, è tutta robaccia inutile che non riesce a controllare, perché quei farabutti del paese ci buttavano anche, lo sai, in un periodo in cava era tutto pieno di bottiglia di un bar, e una volta abbiamo trovato residui di carcasse di macellazione. Allora abbiamo dovuto ripulire, fare la denuncia ai carabinieri, ripulire il tutto, e quello era il bar del paese, mica scaricava lì, capito? Per carità, ecco perché è meglio non avere roba lontana, che poi lontana, non bisogna avere nulla di tutta questa roba qua, tutta roba inutile. Noi per esempio il vigneto era stato venduto secoli fa, il vigneto lo stesso, bisognava vendere tutto all'epoca, o comunque cercare già un acquirente, il primo che veniva glielo davi, tanto mi per quello che vale, una cifra simbolica. Mi. Ma chi era di Florinas dei tuoi? Nonno era originario di Florinas, nonno e tutti i fratelli naturalmente. sembrava, sai, una foto vecchissima del fine 800, era una cosa allucinante. Sembravano, sai, quei mafiosi, tutti vestiti di bianco, col cappello borsalino, con la fascia nera, sembravano dei camorristi. E all'epoca avevano molte cose, poi mangia qua, mangia là, sperpera qua, sperpera là, e beh. Era così, finisco. Tutti colpevoli comunque, tutti colpevoli. Cioè, hanno iniziato a mangiare, a mangiarsi le cose già un secolo fa, per dire. E così vanno le cose, vabbè. Dai, già, son cotto, c'ho anche mal di collo, mal di testa, mamma mia. E ci sentiamo in migliori occasioni, dai. Ciao a tutti gli ascoltoni, se ci sono oggi mortorio, solo casino in preparazione. Dai, buonanotte, buon tutto, ciao ciao. Buonanotte, se non entra qualcuno spengo adesso.